E Bici si è messa a piangere quasi, dicendo: che brava ragazza, chissà se io sarei stata capace di fare lo stesso. Amedeo sposa Beatrice a Napoli il 21 settembre del 44. Avranno due figli, Paolo e Alfredo. A soli 37 anni Ghié viene promosso generale, ma intanto l'Italia è diventata una repubblica. Per Amedeo Ghié la carriera militare non ha più senso. Accetta allora di collaborare con il servizio segreto militare. Alla fine del 45, durante una delle missioni come agente segreto, Amedeo Ghié torna in Eritrea, ma ha anche un altro incarico da svolgere, questa volta da parte della moglie. Ora, Bice mi ha detto: guarda, tu devi rivedere Khadija, se no io non arrivo a vedere, perché sono cose ormai passate, tu la devi vedere. E io ti dico che devi vederla, perché devi dargli questo braccialetto mio, con un solitario. Se questo te lo manda mia moglie, per ringraziarti per tutto quello che hai fatto, per quello che lei ha fatto per te. E che dille che io sono arrivato prima di lei, se no lei forse avrebbe avuto il diritto di essere lei a posto tuo, a posto mio. Amedeo e Khadija si incontrano in una sala da tè. Entrambi sanno che quella è l'ultima volta che si vedranno. Si trattengono alcune ore senza parlare, mano nella mano. Negli anni 50 Ghié decide di sfruttare l'esperienza, le conoscenze accumulate e inizia la carriera diplomatica. Insieme alla moglie Bice sarà ambasciatore d'Italia in Egitto, in Yemen, in Giordania, in Marocco e in India. A 91 anni Amedeo Ghié torna in Africa per rivedere i luoghi della sua guerra. Gli eritrei lo accolgono come un eroe, anzi come il primo patriota dell'indipendenza eritrea. Ma Amedeo Ghié non può mancare a un ultimo appuntamento con il proprio destino. Prima di lasciare per sempre l'Africa, Amedeo vuole rivedere ancora una volta l'uomo che gli aveva salvato la vita nel 41. Il mercante Al-Sayyad Brahim Al-Jemani non lo riconosce, ma lo accoglie comunque cordialmente, dispiaciuto perché a causa del crollo del muro del pozzo non può offrirgli da bere. Il mercante comincia a narrare una storia che ripete da anni a chiunque lo ascolti, la storia di quando ha salvato dal deserto due yemeniti moribondi e di come si fosse affezionato a uno di loro. Il vecchio mercante è sicuro che gli uomini siano stati inviati da Allah. Andandosene saluta il suo benefattore e profetizza che i due pellegrini prima o poi riappariranno, magari per riparare il suo pozzo. Prima di partire allora Ghié paga alcuni operai perché quella stessa notte aggiustino il pozzo del vecchio. Così all'indomani Al-Sayed potrà avere un'altra straordinaria novella da raccontare ai pellegrini del deserto. Hanno collaborato ai Gialli della Storia Francesco Anzalone, Daniela Ghezzi, Antonella Migliaccio, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Le puntate si possono riascoltare in podcast sulle pagine di Mix24 sul sito www.radio24.it.